finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Con un po' di ritardo, 22:53 minuti primi. Sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. Questa sera ospiti in studio, però con la mancanza dell'altra metà di 25 O'Clock, e cioè il fantasma, ma con supplente. E che supplente? No, in realtà nelle puntate precedenti, non so se il fantasma lo scorso mercoledì lo ha annunciato, mi dicono di sì. Questa sera abbiamo già qui in studio la Furia, band romana e dell'Interland. Che ha molto da dire, almeno dal punto di vista, diciamo, musicale e del progetto che cui ha dato vita. Vediamo se saranno poi fra poco altrettanto loquaci in termini di chiacchiere qua con noi. Nel frattempo vi ricordiamo appunto che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e che il sito della radio è www.ondarossa.info. Radio Onda Rossa che dal 1977, da praticamente siamo al compleanno, il 24 maggio cadrà. Fatevi i conti, 2014, 77, Merbanana mi suggerisce 37. 37 anni, ma soprattutto 37 anni di radio fatta senza uno spicciolo di sovvenzione da parte di partiti partitini, senza fare mai pubblicità. Il tutto avviene grazie a voi tutti e voi tutte, compagni e compagne, che sostenete il progetto editoriale di Radio Onda Rossa e che sottoscrivete per questa radio. Punto. Per sottoscrivere per Radio Onda Rossa andate sul sito www.ondarossa.info, cliccate su sostieni, troverete tutte le modalità per un vostro contributo di tipo economico a Radio Onda Rossa. Gli altri contributi sapete come darli, di idee, di creatività, suggerimenti, critiche, insulti. Insulti soprattutto per noi di 25 O'Clock, mi raccomando. Vi ricordo comunque, e Banana qui devi sostituire il fantasma, devi venire qua, che il metodo più importante per sottoscrivere per Radio Rossa è il conto corrente postale 6180 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 00185 Roma San Lollo. Bravo. I contatti di questa trasmissione 25 O'Clock 25 scritto al numero @ondarossa.info, fantasma @ondarossa.info l'altro contatto. E siamo stati velocissimi stasera, a dire tutte le cose, perché ci rimane solamente da ricordarvi la L'altra cosa storica, non la frequenza, perché nel 77 trasmettevamo su altra frequenza, qualcuno di tanto in tanto ci ricorda, fino alla fine degli anni 80, inizi anni 90, no, metà anni 90, sì. Non mi ricordo più. Sì, 93-3, l'anno non mi ricordo, 93-3, 93-4 e 50. L'anno non ce lo ricordiamo. Però comunque di fatto a un certo punto occupammo gli 87 e 9, che poi si consolidarono come la frequenza di Radio Onda Rossa. Dicevo, l'ultimo contatto da ricordare è quello telefonico, quindi illuminate di rosso la redazione della radio più rossa che c'è, 06491750. Daje. Ed eccoci quindi subito in diretta con tre dei cinque, se non sbaglio, no? Componenti della Furia, vi volete presentare velocemente, insomma, per dare le coordinate appunto vicini al microfono, vai. Ciao a tutti e a tutte, io sono Alessandro, Marco e H, che rispettivamente suonate io voce, chitarra e l'altra voce. L'altra voce. Quindi progetto La Furia, scritto diciamo come va scritto correttamente, pure perché vai. La Furia tutto attaccato col punto esclamativo. Importantissimo questa cosa. Molto importante. Tra l'altro avete anche taggato anche qui San Lorenzo, insomma, anche via dei Volsci, ma tante zone di Roma, e La Furia è scritto pure col punto esclamativo in rosso, se non vado errato, no? Quindi un piccolo tecnicismo grafico, ma sì, però molto essenziali, sì, perché non è che amate delle grafiche particolarmente no, andiamo dritti al sodo. Benissimo. Suonate da quanto tempo come La Furia? Come La Furia da circa un anno. Il nostro primo disco è uscito da circa 4 mesi e non so, parlo un po' della genesi del gruppo. Sì, cerchiamo di capire, diamo le coordinate a chi ci ascolta per capire come è nato La Furia e da quali influenze, da quali percorsi vostri personali e collettivi, ecco. Fondamentalmente, vabbè, noi suoniamo. La Furia è un progetto che cerca di unire i due, diciamo, generi musicali che più ci stanno a cuore, che sono il punk hardcore e il rap. E diciamo il nucleo iniziale della Furia era costituito da me e Caciotta, il bassista, che oggi non c'è, e che una sera ci siamo ritrovati a parlare di un gruppo che per noi è fondamentale, che è Rage Against the Machine. E abbiamo detto da anni che ci abbiamo, che tutte e due ci avevamo la fissa, diciamo, di tirare su un gruppo simile. Da lì poi è arrivato H, che suonava con già con la Tripla, un gruppo rap della scena romana, che adesso non c'è più, e poi Gillo e Marco rispettivamente la batteria e la chitarra. Comunque tutte persone che avete già dei percorsi alle spalle, insomma, di musicisti, di suonatori, di artisti, di cantanti, di rapper, di... Vai. E allora io stasera mi fanno parlare a me, già me l'hanno detto, va bene. E niente, io poi personalmente suono la chitarra con gli ultimi e suonavo la chitarra con gli Automatica Aggregazione, ma sono due, per chi non le conosce, sono due punk rock band, diciamo, della provincia dell'area Sabazia, diciamo. Sì, della provincia nord di Roma, della Laida Provincia Crew, che saluto. E Marco è delle nostre parti anche lui. Dai, forse lo può dire pure lui. Lo può dire lui. Io sono un po' il bambino rispetto a loro, quindi diciamo che esperienze ci ho avuto un po' di meno. E boh, sono con un altro gruppo, però con Leviathan, diciamo, roba strana, scream hardcore. E poi... No, perché sai, no, che quando poi vieni qui e illustri che c'è un gruppo un progetto parallelo, poi ti tocca venire in qualche maniera, magari un appuntamento fra 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, siamo, quando ci avete qualcosa di brutto. Siamo tutti proprio poco loquaci e così. Mandiamo in la musica, mandiamo i dischi. Dai, sono un gruppo introspettivo. E niente, poi io prengo, diciamo, solo la parte rap di provenienza del gruppo. Avevo un gruppo che si chiamava La Tripla, che non ha mai inciso niente, però insomma abbiamo suonato spesso in giro per Roma e cercavamo anche di suonare in situazioni già da prima, in situazioni hip-hop diverse, comunque di quelli, cioè il gruppo hip hop con la base sotto, sì, e sì, i speaker standard, che... però cercavamo comunque di suonare anche in situazioni, abbiamo spesso suonato con gruppi punk, perché comunque diciamo la scena hip hop ci stava un po' stretta come tematiche, come ambiente, insomma. Quindi già delle contaminazioni a livello comunque di conoscenze personali erano già avvenute prima, certo, della nascita della Furia, diciamo. Ok, Banana, conoscevi La Tripla? No, però appunto le influenze del punk sul rap ci sono dall'inizio della storia dell'hip hop, insomma, perché appunto ci ricordiamo, la prima cosa che mi viene in mente, il disco Sandinista dei Clash, illustrato molto bene da Futura 2000, esponente del writer della comunità hip hop, e non è solo l'unico esempio. E noi lo chiamiamo apposta al Banana perché ci fa le citazioni tutte, non è che... Allora, io direi subito, visto che abbiamo introdotto l'argomento, di preparare una vostra traccia dal disco che avete prodotto, abbiamo detto qualche mese fa, che si chiama appunto La Furia. La Furia. Che cosa mandiamo? Come iniziamo? Mandiamo a questo punto La Furia. La Furia, che è il primo pezzo, prima traccia, del gruppo, e che spiega forse un po' l'attitudine, sì, del gruppo. Va bene. Ok, vediamo se ho azzeccato a mettere. Ok, ci siamo e parte La Furia. Di parlare d'amore, la furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore. La furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa. Puntellate di spine, vive dentro a rovi dimore. Forse per questo che non so parlare d'amore, il terrore dato da un telegiornale che ti dice quando piangere e per chi votare, quale idea per un mondo migliore. Tu metti un fiore, io metto piombo, è forse il veleno a farmi stare ancora al mondo, col sangue agli occhi e la furia dentro. Non puoi richiudere la vita in poesie, litanie di luoghi comuni. Non cambierà mai nulla finché l'uomo sfrutterà l'uomo, finché l'accumularsi di ricchezza segnerà il dominio. Vuoi ancora domandare le ragioni del mio odio? Accor come attitudine, la morte di ogni giorno a cui fare l'abitudine. Lo sfruttamento, l'alienazione, l'ansia, la solitudine. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore. La furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore. La furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa. Quindi torniamo in onda alla furia. Bene, dopo questo primo ascolto è ovvio, insomma, che come dicevate voi prima, aspettate un attimo che abbasso, rientro in cuffia. Allora, dicevamo, senz'altro viene immediatamente alla mente il decennio, diciamo, in cui Rage Against the Machine hanno prodotto quelli che sono i loro suoni. Quindi senz'altro, come tra l'altro insomma dicevate, senza problemi, no? Non è che c'è un, cioè che l'influenza venga da lì, è un fatto dichiarato proprio, no? Sì, sì, sicuramente, cioè, la maggiore influenza musicale sono loro. Poi che cosa ha rappresentato, in realtà ve lo chiedo a voi proprio perché appunto voi vi siete lasciati influenzare, che cosa ha rappresentato quel momento storico degli anni, dell'inizio anni 90, in cui a un certo punto uscirono, no, nel senso, penso che magari che età ci avevate, come va preso la cosa, perché i Rage hanno spaccato in quel momento particolare? Io personalmente il primo disco che ho comprato proprio fisicamente, ci avrò avuto 12-13 anni, è stato Battle of Los Angeles dei Rage proprio, e è coinciso con un periodo in cui vagamente, insomma, ancora a grandi linee cominciavo a interessarmi della politica, insomma, a informarmi, a leggere libri e anche poi musicalmente prendevo, insomma, la via tra virgolette del punk, e cominciavo ad ascoltare rap, insomma, uscivo dai soliti gruppi da tredicenne, sì, per andare, sì, verso, io ero piccolo, quindi diciamo non me la so vista, però molto. I dischi ci hanno la fortuna, sì, di rimanere. Più, diciamo che io, al di là, al contrario di Palmiro, cioè, ho iniziato appunto a avvicinarmi al punk e tutto il resto, cioè proprio i gruppi di zona, a partire proprio la Charlie, Tear Me Down. Sì. Quindi le Rage Against the Machine me li sono iniziati a sentire paradossalmente dopo tutto il percorso punk di Mitrofa, dove stavo, e ai concerti che frequentavo. Però insomma, lo sai che poi in qualche maniera cercare di riprodurre il suono di Tom Morello, insomma, non è una banalità, insomma. Per niente. Ma non so se ci riesco, ma penso proprio di no, però. Però l'influenza c'è. Sì, sì, sì. No, no, ascolto. Ma mi piace un sacco, però diciamo che non ho vissuto proprio sulla pelle, ma quella fase lì di quel periodo. E quel periodo, vabbè, c'era anche a livello di rap. uscivano cose come appunto i Public Enemy, Run DMC, Beastie Boys, tutte cose che in qualche modo si sono anche legate a, a altre sonorità come collaborazioni con gli Anthrax, dei Public Enemy. Sì, se, se vogliamo, diciamo, forse dopo Sandinista furono proprio i Beastie Boys, no, a legare comunque il rock and roll, certe sonorità punk al, vedo banana di tubante. Ma loro inizialmente erano proprio un gruppo hardcore, Beastie Boys, sì, sì, sì, primi dischi era proprio hardcore. Mai. No, niente, questo, insomma, quel periodo io lo leggo anche a questi altri gruppi, diciamo, più rap, che però avevano un'attitudine in, in qualche modo punk, secondo me. Cioè, gruppi come Public Enemy, Beastie Boys, insomma. Certo, certo, erano... ovviamente. Comunque venivano dalla strada, insomma, certo, come tutto, cioè, l'hip hop. Sì, era... tutto sommato il salto non è così grande, poi così grosso. Semplicemente forse appunto vai banana. Però ancora in quel periodo nell'hip hop c'erano molte chitarre elettriche, insomma, sì, sì, e sì, sì, che sì, sì, non dispiace a volte, insomma. È vero anche questo. E, quindi dicevamo, Rage Against the Machine, però, che in realtà poi, vabbè, c'è un motivo, sto cercando un po' di condurre la cosa, perché vorrei arrivare poi, farvici arrivare, arrivarci insieme, magari sbaglio, insomma, al punto, all'obiettivo. Rage Against the Machine, che proprio appunto ti ricordavi The Battle of Los Angeles, un penultimo praticamente loro lavoro prima dello scioglimento, cercavano di indirizzare, cioè utilizzavano proprio esplicitamente la musica, il mezzo musicale, per lanciare dei messaggi politici. E questo, diciamo, già era stato fatto da Bob Dylan, cioè fa parte comunque o dalla canzone di lotta, insomma, tradizionale. Ma non solo appunto di lanciare il messaggio, l'anatema, di cercare di mobilitare le coscienze, ma allo stesso tempo proprio di fare delle azioni attraverso la musica. Per cui c'era la prima di Occupy Wall Street, che recentissima appunto occupazione, loro fecero la prima Occupy Wall Street, in realtà c'era il video di con il video Guerrilla Radio, penso, sì, non so se era Guerrilla Radio, penso, sì, comunque bisognerebbe poi andare a cercare su YouTube, comunque appunto il video in cui in realtà loro avevano improvvisato un palco davanti a Wall Street, fatto il concerto, è venuta la gente, quindi di unire l'utile al dilettevole, come dire, insomma. Vabbè, uno dei motivi dello scioglimento dei Rage è stato anche quello che loro addirittura molto estremi nelle loro scelte, si erano prefissati di tramite il gruppo di creare dei cambiamenti politici. Certo. E sì, sì, sì. Per un certo, si sono anche in parte sciolti, l'hanno in parte, anche fatto, in parte l'hanno anche perché fatto. Cioè, il movimento negli però Stati Uniti praticamente a un certo punto quasi coincideva con sì, i movimenti delle Rage Against the Machine, in giro per i concerti, le loro interviste, gli ospiti che avevano, eccetera eccetera. Ci stanno degli illustri precedenti, insomma, John Sinclair nel 68 americano, cioè non è una cosa proprio, c'è sempre un qualcuno che ha fatto sì, qualcosa, no, per... diciamo che loro poi, cioè, secondo me ci hanno avuto molto effetto su determinate cose, invece nella loro autocritica hanno quasi, cioè, uno dei motivi dello scioglimento è stato proprio che secondo, certo, loro non sono riusciti a cambiare abbastanza poi, certo. Però ci si riprova, tutto sommato hanno seminato, perché poi esce fuori La Furia a distanza di ormai Battle of Los Angeles, è del 99 se non sbaglio, che cos'è? Penso sì, di sì, tra il 97 e il 99, 15 anni, sì, sì, 15 anni dopo esce fuori La Furia, che è un esperimento italiano, romano. Sì, noi sicuramente quello che ci differenzia un po' da Rage, Rage erano quasi praticamente un collettivo che poi suonava. E noi a livello politico magari siamo tra virgolette più variegati e meno, diciamo, compatti per naturalmente ci sono delle cose che ci accomunano, come l'antifascismo, l'antirazzismo, il fatto di avere una visione molto critica della società attuale, in particolare del capitalismo. Poi ognuno, diciamo, ha il suo percorso politico che magari può essere un po' più diverso dall'altro, che è più individualista. Chi... Anche perché poi, diciamo, venite anche da quanto ho capito da zone diverse di Roma. più o meno di Roma, dintorni, insomma, non stare proprio nei stessi quartieri, o mi sbaglio? Sì, una parte di noi viene dalla provincia e tra parentesi poi si è spostata, diciamo, a Roma per motivi lavorativi, ah, okay, di studio. Ok. E... Caciotta per esempio è attivo, e H anche sono attivi al Quadraro, se vuoi dire. L'unica cosa, riprendendo il discorso di prima della, insomma, la politica nei testi, semplicemente volevo dire che secondo me già il fatto di parlare dentro un microfono è un atto politico, insomma. Poi noi cerchiamo comunque di non riproporre semplicemente slogan mettendoli in musica, ma parlare di esperienze nostre e attraverso quelle di dire qualcosa. Io penso che il senso della musica debba essere questo, cioè usarla per dire qualcosa, insomma. Dire qualcosa, basta. Parlare del proprio lavoro, parlare della propria vita è già politica, non è che serve. No, dico, nel mainstream penso che tutto sommato non si dica niente. No, è quello il fatto, che l'importante non si dice proprio niente. Dello slogan, esatto. Cioè, anche chi parla e non dice niente, insomma. Sì. Cioè, tutto sommato le parole sono un mezzo commerciale per arrivare, cioè, se vendono. Chi fa mainstream compone delle cose per venderle, per comunque fare della merce, insomma. Mi sembra che stare abbastanza lontani dalla merce. Beh, sì. E quindi? Decisamente. E quindi che cosa mandiamo? Consuma. Ok, allora dai, La Furia, la seconda traccia, visto come ci siamo arrivati proprio puliti. Molto naturalmente. Ok, benissimo, allora seconda traccia per La Furia, Consuma, c'è pure qui il video, no? Molto. Sì. Poi ne parliamo dopo dei video, dai. Ok, Consuma. C'è un ingozzato di sorrisi, sogni di plastica, vetrine, voglie imposte con la frutta della comunicazione. Siamo corrosi dentro dalla voglia di avere una soggetta, ancora un altro per esistere e non scomparire. La repressione silenziosa perché hanno capito che è meglio un telecomando a moschetto puntato. Non è un romanzo di Orwell, è molto peggio, pensi di essere libero, sei lo schiavo perfetto. Muori seppellito tra le rate di una macchina sportiva, sgomitando nella merda per raggiungere un benessere dettato da chi vuole poi rivenderlo. Una massa di consumatori ignari come agnelli sul patibolo. Consuma tutto quello che vuoi e tutto quel che non hai. Consuma una città che tiene a specchiare il senso di una vita, appressa cose inutili finché non è finita, soffocato da bisogni che ti hanno imposto. Scegli pure il tuo sogno e poi dai un costo. Scappali pieni nei supermercati, occhi spenti e cuori freddi, cosa siete diventati? Siete tutti benvenuti, basta che consumiare. Socialità a pagamento, divertimento a radio. Liberi di scegliere marca e colore, liberi di scegliere da chi farvi sfruttare. Io tengo vivo il senso di sorrisi e lacrime, gira volto coperto dentro l'era dell'immagine. Consuma tutto quello che vuoi e tutto quel che non hai. Consuma tutto quello che hai, prima o poi ti possiedi. Tutto quello che hai, prima o poi ti possiedi. Ti possiedi. quante volte l'abbiamo consumato. Anche se credo che nella storia di 25 O'Clock oggi e Next Time prima, prima del 2002, non abbiamo mai avuto la versione in vinile. Del primo disco di Rage Against the Machine. Killing in the Name, La Furia, qua a Radio Onda Rossa. Now you do what they told ya. 87.9 della modulazione di frequenza. Allora, ancora un po' di chiacchiere con La Furia live qui a Radio Onda Rossa. Allora, eravamo rimasti più o meno al fatto appunto che avete prodotto due o tre video, adesso sicuramente tre che ne ho visti io. Sì, tre, confermo. Il primo La Furia, credo che era quello che sì. È praticamente una sorta di ripresa, diciamo, tipo che suonate. Sì, è un promo uscito prima del disco fisico, insomma, per quasi sempre utilizzando il bianco e nero, o sempre, mi sbaglio? Sempre bianco e nero. Sempre bianco e nero. Proprio. C'è un motivo particolare per questa scelta grafica? Una scelta stilistica nostra, ma non è data poi da qualche motivo in particolare. Ci piaceva il bianco e nero. Sì. Faceva un po' anni 90, forse, per quello. Okay. E quindi dicevamo La Furia, appunto, che è questo promo. Poi ne sono usciti altri due. Poi è uscito il video di Consuma, diciamo fatto un po' meglio, insomma, del primo. E poi qualche giorno fa un video fatto in maniera molto do it yourself di Maledetto Lavoro, in concomitanza, insomma, del primo maggio, della festa dei lavoratori. Utilizzando che cosa poi in realtà? Stanno delle riprese proprio del lavoro, diciamo, legato ai concerti, gli eventi, grandi eventi, montaggio di palchi, facchinaggio, che è, diciamo, la grande industria che c'è a Roma, perché non essendoci fabbriche, la fabbrica di Roma è quella dello spettacolo. E insieme alle immagini proprio di lavoro ci stanno delle immagini di un'iniziativa che era stata fatta con il collettivo organizzato dei lavoratori dello spettacolo, mi pare nel 2012, che si era entrati al concertone del primo maggio con striscioni, fumogeni e bandiere, facendo un'azione, quindi sì, perché era l'anno in cui era morto Matteo Armellini, il ragazzo che è un rigger che morto sotto il palco di Laura Pausini. E niente, quel pezzo parla proprio di questo, di questo lavoro. Qualcuno di voi ha mai lavorato nel settore? Tutti noi abbiamo lavorato, alcuni di noi ancora ci lavorano, chi nel facchinaggio, chi nel mondo dei catering, comunque sempre legati, attività connesse sì, al mondo dello spettacolo, ai grandi eventi, sì, ma penso il 90% dei ragazzi a Roma hanno lavorato in quest'ambito, insomma. Scusa, dopo però quella iniziativa sotto il palco del primo maggio, immagino che i sindacati, la triplice sindacale, abbia accolto senz'altro le richieste dei lavoratori di lavorare in condizioni di sicurezza e, diciamo, con dei contratti certi. immagino sia stato certamente così o no? I sindacati ovviamente hanno totalmente ignorato quella protesta, anche perché organizzano da anni quel concerto parlando di sicurezza, di diritti dei lavoratori, facendoli poi lavorare nelle stesse identiche situazioni di qualunque altro, cioè, servendosi di quella manodopera, certo, con quel tipo di modalità, come, come che... tutti gli altri eventi basati sullo sfruttamento, sulla mancanza di tutele. Il montaggio del palco il primo maggio si svolge nello stesso evento. Siamo al 2014, identico. Insomma, ne sono passati 2 anni, però cioè, nulla è cambiato. Se non formalità, stanno più attenti a se il lavoratore ha il caschetto o meno, insomma, queste cose che però non poi il fatto che stiano lavorando da 12 ore. Cioè. Che è la maggiore causa di rischio e di pericolo, quello non importa, perché comunque lo show deve essere montato e deve andare avanti, insomma. Proprio poi parlavamo prima in fuori onda appunto di alcuni personaggi, insomma, proprio di questo argomento, proprio un paio d'anni fa ne parlavamo proprio col Cinghio, che dei Buffalo Grills, che appunto ha lavorato pure lui per molto tempo nel settore, poi si è riuscito a tirare fuori sempre lavorando nel settore, però facendo attività meno rischiose. Ecco, un po' la faccenda è quella che comunque poi chi suona è importante che prima di tutto, cioè penso sia proprio una cosa di educazione da dare ai pischelli che suonano, nel senso che poi c'è una voglia comunque di emulare per molti pischelli che comunque pure fanno punk, fanno, però di emulare, di arrivare comunque al successo, a traguardi, a comunque avere ambizioni o sogni nel cassetto, che molte volte rimangono tali, però che sono quelli appunto poi di partecipare, che ne so, all'Heineken Festival, piuttosto da aver capito la partecipazione in quell'evento importante. La scena underground come si rapporta? Underground mi riferisco a voi, ma mi riferisco pure a tante altre formazioni, con questo tipo poi invece di con questo tipo di atteggiamento che tende poi al mastodontismo, tutto sommato, a creare, a comunque a riprodurre questi eventi. Dove vi piace suonare a voi? Ecco, dai, mettiamola noi più facile. Suoniamo principalmente in centri sociali, situazioni occupate, autogestite. O comunque se... Quanto è alta l'americana dentro un centro sociale? Molto bassa, ci piace il palco basso e le stanze piccole, perché studiamo di più e ci divertiamo sicuramente di più. E anche perché l'affluenza è sicuramente minore dei grandi concerti, però è sicuramente più sentita, insomma, diciamo. E quello che ci si aspetta dai grandi artisti è che chiaramente un gruppo, diciamo, medio che suona in un grande evento non può avere il controllo, diciamo, di chi monta il palco. È quello che ci si aspetta poi dagli artisti tra virgolette grandi, come può essere appunto la Pausini, l'ho chiamata artista, scusatemi, Giovanotti o via dicendo. È che loro, che poi sono, diciamo, tra virgolette, quelli che muovono tutto questo, possano avere, cioè devono assolutamente avere il controllo di tutta la macchina che mettono in moto. E ci si aspetta, certo, dei soldi ne girano tanti, sì. E loro so poi alla fine, non dico forse gran parte vanno in tasca a loro, poi in realtà è un'industria, per sì, cui sì, certo, manco tutti vanno in tasca a loro, c'è anche chi mangia sopra di loro, però insomma se loro cominciassero a abbassare il cachet, magari ci sarebbero, certo, più soldi per garantire la sicurezza di chi lavora in questo. E poi, come dicevi, molte volte è semplicemente un fatto di fare in fretta, cioè la sì, sono i ritmi, Io suono stasera a Reggio Calabria, domani devo andare a suonare a Taranto, per cui devo fare 400 chilometri. Infatti una delle richieste che si faceva con quel collettivo era anche quella di eliminare queste date in cui la notte la mattina si monta, si fa il concerto, la notte si smonta e si parte direttamente per la data a rimontare la mattina, certo, dopo. E basta alternare, fare un giorno sì, un giorno no, un giorno di riposo, perché certo, ritmi che umanamente non si possono reggere, insomma, mi sembra evidente. Quindi viene spontaneo ascoltare Maledetto Lavoro, quarta traccia. La Furia, la volete annunciare voi, dai? È stato detto tutto, Maledetto Lavoro, un pezzo dedicato a Matteo Armellini, a Francesco Penna e a Khaled Farouk e a tutti i lavoratori dello spettacolo. Eccolo. Vetrine del superfluo costruite sul lavoro nero e sfruttamento. Dietro le quinte ogni concerto c'è chi scarica bilici per tutto il giorno, chi resta appesa a 20 metri sopra il mondo, chi c'ha le mani spaccate sul ferro ghiacciato d'inverno e rovente d'estate. Correre per ottimizzare i tempi, risparmiare sulla sicurezza, non sull'auticompensi. A sedicenti artisti, caschi gialli, guanti neri, tutta la notte come ladri senza essere visti. Poveri cristi crocifisso in liar, in nome dello show business, e non esiste che per sti quattro spicci tocca pure morisce. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro. Per un cane un altro Cristo da un'americana, arruolato a forza a fronte di una guerra muta, celato dietro riflettori accesi, dietro lo spazio dello show vanno in onda tutti i giorni tagli e precariato. Questo denaro è maledetto, morire per un piatto, per un tetto, per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento, se vuoi mangiare scoppa e rischia il culo tutti i giorni, questo è il suo ricatto. È la macchina dell'intrattenimento, il tuo cantante preferito non è altro che un prodotto. Progettarlo, impacchettarlo e dargli un costo, venderlo a caro prezzo, realizzare un buon profitto. Questo denaro è maledetto, morire per due spicci al nero, per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento, se vuoi mangiare sgrappa e rischia il culo tutti i giorni, questo è il tuo ricatto. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro. Intorno, e se penso al passato è un'andata senza ritorno, e sto giorno tutti contenti del proprio regalo. Sputano sangue per mangiare del vile denaro, vivendo in fretta e consumandosi in vano, cercando forse un motivo per capire davvero chi siamo. Uso il mio rap per riflettere e flettere il tempo, consolazione del fatto che penso diverso, cercando un senso dentro quello che sento, guardando oltre la gente, la mia mente non cerca consenso. Eppure tu sei uguale alla massa, sei nella farsa, sei come una giostra che cambia la faccia, consumatore senza più interessi in tasca, senz'altro da dire o da fare, qui non ti passa. Non ti passi tali e quali, uguali a sempre, niente che ti basti veramente, quando pensi, pensi lentamente, quello che ti serve non ci serve. Agannace, il tempo ormai è al limite, agannace, qui restano le briciole, agannace, ma lasciami decidere, agannace. Lo sai che io non sono amico di Maria e tengo fuori a forza venditori porta a porta dalla vita mia. La mia domenica non è mai buona e non rispondo, non partecipo, non passo la parola. Tutta sta simpatia sta cominciando ad ammal cazzo. Vuoi vendermi qualcosa? A canna coi sorrisi e dimmi il prezzo. Dimmi quanto costa un po' di spazio dove posso respirare dopo levati di mezzo. Nessuno prende il posto mio, sono in guerra contro tutto il mondo e pago ogni centesimo del conto, ma decido io e non tratto e metto un punto di domanda sopra ogni mio ritratto, fuori dalla cerchia dei buffoni, lontano dalle tue opinioni, le tue ragioni, in questa terra piena di vetrine come di prigioni, non basta manco una nazione di milioni per tenerci buoni. Tutti tali e quali, uguali a sempre, niente che ti basti veramente, quando pensi, pensi lentamente, quello che ti serve non ci serve. Agannace, il tempo ormai è al limite, agannace, qui restano le briciole, agannace, ma lasciami decidere. Agannace. E allora, Colle del Fomento e questa traccia a canna ci serve per introdurre un altro momento di chiacchiere. La felicità passa niente, tutto sa. La furia progetta, appunto, che dicevamo, nasce, o anzi dicevate voi stessi, nasce appunto dall'incontro di tanti musicisti, personaggi, gente che più o meno già calcava la scena romana. Ecco, qual è il rapporto con i compagni, con i compagni, le compagne, i gruppi militanti o meno, insomma, attivisti sulla scena del politico e del sociale a Roma? Mi sembra che comunque pure sul vostro lavoro abbiate scelto di in qualche maniera collaborare con chi vi stava più simpatico, insomma, comunque con chi trovavate un sentimento di vicinanza. Beh, sì, vabbè, le collaborazioni molte sono nate proprio per diciamo amicizie personali, persone che suonano in gruppi, nei gruppi paralleli che abbiamo. Sì, però ad esempio la scelta come quella dei Serpent Seno è sicuramente per una vicinanza nel modo di approcciarsi alla musica, insomma, di usarla, come diciamo prima, per dire qualcosa, per lanciare dei messaggi. Nel disco vogliamo elencare comunque quali sono le partecipazioni e comunque i, come dire, non mi viene il termine, featuring. No, sì, featuring, no, vabbè, sì, certo. Mi viene il termine bruttissimo che da Facebook, le amicizie, collaborazioni, però, diciamo, le affinità, dai, le affinità elettive. Collaborazioni, appunto, ci stanno i Serpent Seno, ci sta il Bastone, che era l'altro membro della tripla, c'è Maurizio degli Ultimi, sì. Poi c'è DJ Ceffo dei Broken Speakers. Poi c'è questa citazione dei Colle, sì. Vabbè, che penso sia un gruppo che, anche se ha fatto sempre rap, comunque ha legato varie scene. Penso che a Roma, da chi frequentava i rave, a chi frequentava i peggiori squat romani, a chi stava in fissa solo col rap, l'hanno ascoltati tutti, insomma. Poi forse i Gol del Fomento ritornano un po' a quella cosa che dicevi te all'inizio, cioè hanno la capacità nella loro espressività di essere estremamente sinceri, cioè di essere, sì, la, sì, gente proprio che dice le cose che pensa, ma soprattutto che dice le cose che vive. Esatto, ma infatti penso che molti dei testi dei Gol del Fomento siano in un certo senso politici, non trattando la politica, sì, direttamente, insomma. Nelle cornici classiche, esatto, insomma, parlando semplicemente significativi, di, certo. Sì, parlando di loro stessi e delle cose che pensano, in qualche modo fanno dei discorsi politici, insomma. Bene. Sì. No, volevo ricordare, ci siamo scordati di avere collaborazioni, che c'è Valerio Fisic degli Inferno, che volevamo ringraziare anche perché ha registrato proprio lui il disco stesso. Dall'Ombrelobo Studio, e quindi insomma, comunque due ce l'eravamo scordato. Poi al di là delle collaborazioni, due cover che poi rispecchiano fondamentalmente quello che abbiamo detto prima, le due anime, una presa gruppo, dall'hardcore, una è un gruppo hardcore di Manziana, sempre diciamo dell'orbita della provincia, e i Charlie, appunto, dove poi cantava quello che è attualmente il cantante degli Ultimi, che è in un'altra featuring, quindi poi siamo sempre là che giriamo, e appunto la cover del Colle del Fomento solo hardcore, poi ci ripetiamo e diciamo sempre, sì, solo hardcore. Va bene, allora quindi adesso la mandiamo, che è la quarta traccia, la terza traccia, no, la quinta traccia, ecco, l'ho trovata, la quinta traccia per La Furia, cover e omaggio a Colle del Fomento. Oh, aspetta, però 0649 1750, perché sennò pare che ci stiamo solo noi stasera, stanotte. Facciamo vedere e soprattutto facciamo sentire che ci state da capo. Colle del Fomento, 0649 1750. La Furia, anzi, che fai Colle del Fomento. Lo sai che spacca, la strofa che ti rappa e la tua testa flippa. Adesso canta tu, vediamo chi è che strippa. Faccio rap, solo rap, tu ci ridi sopra. Lo sai che spacca, la strofa che ti rappa e la tua testa flippa. Adesso canta tu, vediamo chi è che strippa. Faccio rap, solo rap, tu ci ridi sopra. Ci giochi ma col rap non ci si gioca. Sai che flippa il core, solo al core. Per questo, se non ti piace è una questione di testa e non solo di gusto, quindi vai, non ti do quello che vuoi. Zero rage, zero gap, è sopra il colle. Sono tanto b-boy, cazzo e storie strane. Troppe cose a puttane, troppa gente che cambia in due settimane. Io resto sordo, cieco, muto. Pure se mi prendi a botte in testa, resto qui seduto e rido. Non ho motivo per alzarmi, per confrontarmi. Se vuoi dammene uno tema, non cercare di fregarmi, perché sto cercando di lasciarti qualche cosa che rimane dentro la tua testa se non lo cancelli. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore. Non regalo niente, solo hardcore. 10, 100, 1000 volte, pure se è pesante devo essere forte. Sempre solo stecco l'aria con una sigaretta accesa. Carta e penna nella stanza chiusa, non c'è scusa, solo al core. Guardami negli occhi, io cerco un modo per star bene, giorni amari troppi. Chi non ha niente da dire meglio che non dice niente, ma quel che sento mi fa fare male sempre più pesante. Fatto mano vero e qualche cosa gli rimane. Se parli parli in faccia, se non sei di fame. Non vali di cose cazzo troppo in giro. Non puoi comprarmi perché scrivo, quindi sono vivo. In testa vedo sciocca e la TV non puoi vedere. Aspetto il giorno perché notte ma non puoi capire. E non mi puoi seguire, è una questione di mentalità. Se c'è solo la facciata, la casa non c'è sta. Perché flippo solo al core. Non regalo niente perché flippo solo al core. Perché flippo solo al core. Non regalo niente perché flippo solo al core. Perché flippo solo al core. Non regalo niente perché flippo solo al core. Perché flippo solo al core. Non regalo niente perché flippo solo al core. Con le tue cluster bomb non reggiamo il paragone. Ma il parente artigianale rappa contro ogni prigione. Allo stato che uccide regaliamo dinamite. Nicola da Grindr, gatto a sette vite. Società infame, non sai quanto ti costa. Evaderò dall'alto, Vassilli spalo costa. Genesi dannata, dalla coscienza armata. Prometo ruba il fuoco, io lo scaglio sulla strada. Il cast entro i quartieri, brillante annunciazione. Una stella danzante partorisce insurrezione. Ricorda il 6 dicembre, remember, remember. Le lacrime sul volto della tene che non dorme, forme disinvolte nella notte che non stanca, traccia un'orbita di fuoco con la boccia sulla panca. Scatenami l'inferno nell'inverno di passione. Quando squarci sto grigiore con in mano un estintore. Lo sbirro prende fuoco, forza autocombustione. Pensavi fosse un gioco, invece brucia la nazione. La giustizia mia sia vendetta personale. Se è l'unica mia scelta, muo' davanti allo scaffale. Sale l'odio dal cantiere, sulla strada, dall'ufficio alla borgata. Dimmi quale auspicio sta giornata. Non trabaccare l'uscia, intanto te ne brucia. Come nel deserto i carri armati di Fallucia. Oppure fate shopping che lo sparo è rimbalzato. Abbiamo la rivolta e sto Natale è rimasto. Andato. Pensa nelle bocce, illumina i sorrisi di chi assalta il cielo, merda, eccovi la crisi. Cricche sul tuo milite, mica verso lacrime. E brinda la tua morte, vandalizzo la tua lapide. Non serve, te l'ho detto, brucio di passione. Non prego, sono inetto, non aspetto il metadone. Fotto l'apatia, quando passo non arretro. Se negli occhi ho l'anarchia, onora il fuoco greco. Li avevamo citati, quindi Serpenzeno, sono andati Serpenzeno col fuoco greco. Allora, la Furia Radio Onda Rossa, la Furia qui live negli studi della radio Urban Blaster sul Serri. Dopo che abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo attraversato di qua e di là le vostre esperienze, i vostri modi di vedere e di raccontare il mondo. Invece come va? Cioè, la domanda è molto semplice: come sta andando poi tutto sommato questo prodotto che avete fatto e tutto quello che ci ruota intorno? Beh, il disco in generale è andato molto bene, no? Si è rivelata pure una scelta vincente quella di metterlo subito ascoltabile su YouTube In toto, sì. e abbiamo fatto dei video che per noi comunque rimangono una grossa opportunità, nel senso che il web è aperto, perché si può fare un video di una buona, diciamo, qualità a un basso costo e totalmente autoprodotto, insomma. E quindi ci sembra, cioè, abbiamo fatto, diciamo, una promozione do it yourself. Comunque, insomma, questo il do it yourself, l'autoproduzione in italiano, essenzialmente richiede comunque in realtà delle manualità, delle capacità di saper fare, insomma, in qualche maniera, delle passioni da saper, appunto, chi suona potrebbe benissimo non saper fare il video. E comunque questo mette in circolo pure un circuito di collaborazioni, semmai, no? Assolutamente, sicuramente, cioè, fare autoproduzione è comunque una cosa che porta via molto tempo e non sempre, come dici te, si hanno le capacità per fare tutto, e lì entrano in gioco, insomma, gli amici, le persone che ti supportano. In particolare volevamo ringraziare il Tank, che è il ragazzo che ci ha girato due dei tre video che abbiamo fatto, e praticamente l'ha fatto in maniera gratuita per autopromozione, insomma, diciamo, sua, ma soprattutto per un'amicizia, una voglia di comunque collaborare, sì, a un progetto, sì, esattamente. E questo comunque essere sulla rete, quindi in qualche maniera virtualizzarsi e appunto essere presenti nel ciberspazio, come si diceva una volta, comunque porta invece, c'ha un rapporto poi con la realtà, no? Perché poi mi stavate dicendo che in realtà questo farsi vedere virtualmente porta anche una fisicità, cioè uno spostarsi. Poi naturalmente il tutto va condito con tanti live che poi sono la cosa principale, poi fondamentalmente, che le persone che rimangono più colpite da un gruppo rimangono colpite non dal video naturalmente, ma dal live. Internet ci ha permesso di farci sentire tante persone che poi ci hanno chiamato a suonare, e ultimamente abbiamo fatto parecchi live, molte trasferte pure fuori Roma, e la risposta è stata buona. E in particolare mi dicevate pure, insomma, non proprio nei dintorni romani, ecco. Siamo stati a Genova, siamo stati a Lecce, Campobasso, Perugia, Pescara. Diciamo che in tutte, insomma, in quasi tutte le situazioni c'è stata una risposta molto buona. C'era gente che cantava pure le canzoni, cioè, cosa che ci ha fatto molto piacere, insomma. Anche perché, insomma, una band che è nata da un anno, sì, poco più, insomma, che con un disco uscito da 3-4 mesi, qualche, diciamo, traccia pubblicata sul web, insomma, è significativo. So soddisfazione. No, vabbè, penso che sia quello, insomma, alla fine del concerto, cioè, diciamo, il concerto è figo, per carità, tutto, nel senso che dal punto di vista di chi suona, il concerto è una parte importante in cui uno dà tutto se stesso, insomma, cerca comunque, però il fine concerto è quello della rilassatezza, quando hai finito di suonare e cominci a cazzeggiare con la gente, col pubblico, forse è la parte, no? Per esempio, guarda, il concerto che è andato meglio è stato quello a Lecce. E assolutamente noi non ce l'aspettavamo, e la cosa bella è stata che era un concerto di supporto a un'occupazione che era nata una settimana prima, molto importante per i ragazzi di Lecce, binario 38, binario 68 se non sbaglio. Uh-huh. E a Lecce c'è sempre stata e c'è tuttora una scena molto figa, e con questo binario 68 poi ha trovato un posto che poi faccia aggregazione oltre agli altri posti che ci stanno, come il Blue Beat Bar, e lì c'è stata praticamente, abbiamo fatto un concerto con 500-600 persone che ci hanno chiesto addirittura il bis. È stato veramente un momento molto molto bello d'aggregazione, e soprattutto ci siamo sentiti pure parte di qualcosa che nasceva, che nella fattispecie è un posto occupato da gestire, e quindi ci fa molto piacere, insomma. Dunque, un'altra cosa poi mi è venuto in mente, mi avete fatto illuminare una lampadina e ho realizzato. Comunque, prima ancora di questo, sì, va bene, cioè tutto fighissimo, tutto bello, la soddisfazione del suonare, eccetera eccetera, si mette tutto libero su internet, però una band appunto di gente poi che essenzialmente lavora e magari lavora da precario, suppongo, per lo più, visto appunto proprio la ormai vado abbastanza sicuro e convinto su questo punto, perché quando c'è un gap generazionale di più di 10 anni rispetto al mio, dico, precario, cioè era un po' come il discorso di Massimo Troisi e i meridionali, no? Cioè immigrato, emigrante. Dicevo, ok, tutto a posto, tutto bellissimo, tutto figo, dopodiché per pubblicare un disco, per fare un video, cioè servono dei soldi. Quindi che cosa, qual è la maniera di supportare comunque un progetto? Perché di questa cosa ne parlavamo per esempio con Appalcaggio Hardcore in una precedente intervista, un discorso che ci piace rimettere in gioco. Qual è la modalità giusta per supportare una band, per farla continuare a suonare? Al di là del fatto che poi appunto è la passione quello che muove essenzialmente poi lo spirito, l'impeto, la voglia di continuare a fare produzioni o autoproduzioni. Dal punto di vista nostro, di chi vi viene a sentire, ma che qual è il ruolo, lo scopo? E in primis, guarda, quello di andare ai live se possibile, perché la prima soddisfazione del gruppo poi non è economica e monetaria, ma è bello vedere proprio la gente che viene a vederti, ma soprattutto poi anche comprare il disco, comprare le magliette. Ti faccio un inciso, fermo, come dicevano i Placcaggio, tante altre band, mo mi vengono in mente i Placcaggio, ma chiunque, fermo restando che Core Punk ci si va sotto. Sì, sempre, assolutamente. È una legge della fisica proprio. Assolutamente. Al massimo se sei proprio un grande vai a paro, insomma. E poi supportando il gruppo supporti anche delle realtà, diciamo, limitrofe. Per esempio adesso mi viene in mente Hell Nation, Roberto, che ci ha dato una grande mano e dà una mano a tutti i gruppi di Roma. Invito tutti, se volete comprare il disco, più che comprarvelo dal banchetto da noi, andate da Hell Nation in via Nomentana e compratelo, e comprate non solo il nostro ma altri dischi, e supportate queste realtà che sono molto importanti per la scena underground, insomma. Che è un dire? Po' questo. Magliette soffiche. Pure le magliette. Va bene. Consuma. Allora, come? Consuma. No, va bene. Sì, mi è venuto in mente una cosa, cioè una band che ospitai, penso che questo qui è del 2003, ecco, c'era scritto sulla copertina, nel 2003 loro venivano dall'avvicino, non proprio qualche centinaio di chilometri da Lecce, in Lecce è l'estremo lembo meridionale della Puglia, loro invece la parte che guarda il Molise, una città per certi punti di vista è un territorio terribile, che è quello del Tavoliere delle Puglie e di Foggia. Loro erano un'altra band, una realtà all'epoca che passò qui per 25 O'Clock, ma più che sì, venne a 25 O'Clock, ma più che altro vennero, poverini, in una giornata, cioè poverini, insomma, si fa per dire, a me non è che venne una giornata particolare in cui c'erano i mondiali in quell'anno di calcio, penso che era il 2004 a questo punto, perché vengono di pare, c'è la partita dell'Italia, perché a noi ci aveva un cazzo proprio, cioè abbiamo fatto la trasmissione a Fono, c'era di Geggiano eccetera, un altro spazio, e loro fecero un'intervista molto carina, molto bella tra l'altro, vicina molto bene, ci raccontarono appunto soprattutto di questa periferia, della periferia che potrebbe essere la provincia appunto foggiana. E nel frattempo però stavano con internet puntata a guardare la partita, insomma, e poi alla fine mi sono scusato. Comunque loro si chiamavano Rocky Horror Fucking Shit, eppure loro avevano come riferimento principale i Rage, quindi Rock Horror Fucking Shit Communist. Ascolta bene qui, se guardi sopra il palco, te lo faccio. Onda Rossa 87 e 9 della modulazione di frequenza, La Furia qua da noi. Sesta traccia, Yuri Gagarin per La Furia, eccola qua. Говорит Москва, передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Ci sono stelle e pianeti, ma nessun dio se guardo nel cielo. Vola più su oltre le nuvole in cielo, più alto tra le stelle, più alto di ogni limite. Adesso sa che non c'è dio senza uomo. Vola dove la paura dell'ignoto muore. Più su oltre le nuvole in cielo, più alto tra le stelle, più alto di ogni limite. Adesso sa che non c'è dio senza uomo. Vola dove la paura dell'ignoto muore. Yuri Gagarin. Sei nato già macchiato da un peccato mai commesso. Il primo passo, verso un ricatto congegnato, controllato socialmente col baratto del perdono. Costruiscono la colpa e danno assoluzione in dono. Poi ancora avanti, marchiato col battesimo, indottrinato a scuola, soldato in un esercito di rassegnati in terra che aspettano vite migliori dopo vite nelle quali sempre li calpestano. Oggi alleno mente e corpo e costruisco i miei comandamenti, un senso a Dio padrone di se stesso. Oggi non prego e non aspetto che il mio fantoccio dei umani sul dal cielo ascolti il mio lamento. Costruiscimi le ali, dopo restami vicino. Vorrei volare in mezzo al fuoco, quest'amore clandestino. Non darmi retta, no, si brucia in fretta. Gallo canta ad ogni alba, qui io me la tengo stretta. Miserere, viva la vita e danzo con la luna. Chi fa spaventa passeri non sa volare, per fortuna. Che sogno il blu profondo in questa notte bruna. Non voglio più certezze e ne faccio una luna. Mi basta il sangue nelle vene, qualche ruga in più sul viso. La destinazione non è paradiso. Salto con grazia tutto chiaro all'improvviso. Ancora il tempo di godere tutto ciò che non è ancora chiuso. Vola più su oltre le nuvole in cielo, più alto tra le stelle, più alto di ogni limite. Adesso sa che non c'è Dio senza uomo. Vola dove la paura dell'ignoto muore. Più su oltre le nuvole in cielo, più alto tra le stelle, più alto di ogni limite. Adesso sa che non c'è Dio senza uomo. Vola dove la paura dell'ignoto muore. Thank you. allora dai, è stato quasi un richiamo all'ordine. Ci eravamo distratti qua da ste parti. Allora, Yuri Gagarin. Poi ho mandato comunicazione servizio, Ciccio, 10 minuti e te chiamiamo, eh. Vai, vai. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin è un pezzo proviamo ad andare in orbita. Che non parla di Yuri Gagarin, cioè nel senso lo prende come esempio per parlare più in generale della religione, vogliamo dire così. È appunto un esempio di un uomo che è andato là dove dicono ci dovrebbe essere Dio o chi per lui, ma non c'era. Ma non c'era. Lui è andato lì con solo grazie alla forza della scienza e dell'uomo. E insomma, più dimostrazione di quella penso che non ci sia. Insomma, sì, poi insomma c'era quel discorso lì che la Terra avrebbe. Che il sole avrebbe dovuto ruotare intorno alla Terra, per cui c'è stata della gente che è stata costretta ad abbiurare, sì, insomma, nei secoli passati. E poi in realtà col passare del tempo certe convinzioni diventano così obsolete. E, al di là di Yuri Gagarin, invece abbiamo appunto prima della comunicazione di servizio, appunto, del chiamare Ciccio per poi andare avanti su quelle che sono le prossime vostre partecipazioni live, i vostri progetti. Non so se avevate qualcosa di specifico da dire che abbiamo dimenticato fino ad ora. No, penso io... mi fate condurre a me, io normalmente sono sì, no, prima per dire quello. Dicevo, no, perché di solito io sono abituato invece a lasciare molto all'estro e alla voglia di dire delle formazioni. Non c'è. No, volevamo ringraziare, facciamo un po' tipo i ringraziamenti. No, quelli li famo dopo. Dai, okay. Allora dai. Allora, diciamo, e io nel frattempo che dite le prossimi appuntamenti, io chiamo Ciccio. Vabbè. Ok, e nella fattispecie adesso abbiamo 3 serate a Roma nel prossimo mese. Nella fattispecie il 16 maggio siamo all'Acrobax con Serpenzeno, Militantà, e a sostegno della Palestra Popolare, altri gruppi poi che non ci vengono in mente adesso. E poi la Palestra Popolare dell'Acrobax, sì, ma è nuova? Cioè, la Popolare, la Popolare proprio. Ma c'è da tanto tempo? Perché non... lo ignoro. Va bene. Ci trovi, okay, un po' impreparati. Impreparato pure io, perché insomma ero rimasta la Renoiz, la Sala Prove, gli Orrez. La palestra mi mancava all'Acrobax. Penso che sia una cosa fresca, però non vorrei. No, no, vorrebbe essere, diciamo, la Popolare, quindi... però mi ritorna che invece qualche annetto ce l'ha. E poi siamo all'Orto Insorto al Quadraro di San Lotto, però scusate, siamo un po' disorganizzati per quanto riguarda. C'è un bel terminale internet, volendo lì potete andare sul sito, sul vostro Facebook Defiance. E poi appunto, per tornare al Ciccio, siamo il 28 maggio a Strike con Palcoscenico al Neon e forse un altro gruppetto da definire. È un giovedì infrasettimanale, però sicuramente farà caldo e sarà bel tempo, quindi che state a fare a casa, venite e mandiamo poi sì. Crossfest date a caso. No, c'è il Rhodes Fest, però quest'estate siamo a Lecce a Rhodes Fest, non a Lecce, Taranto. A Taranto e... qualcosa in agosto e vabbè, basta. E poi chiaramente se avvisate la radio magari rimanderà queste date che state per fare, per informare, diciamo, i vostri ascoltatori e i nostri ascoltatori. Scusate l'impasse. Nel frattempo squilla il telefono dei Ciccio, eh? Tutto in direttissima proprio. Ui, è il bello della diretta. Sì. Eccolo. Allora, le mandiamo in diretta, ci? Che stai? Sei pronto? Eccolo qua. Vai. Eccoci qua in diretta. Ciccio, ci stai? Aspetta un secondo, ancora no? Eccolo, ci sei. Ciao. Senti, ciao, che voce. Vedi, però adesso rispetto non ritorna in cassa? Poco, alziamo la cassa. Aspetta, Ciccio. Sì, chi si muove? Non fischiare, Ciccio. Eccoci qua. No, no, fischi. No, vabbè, Ciccio viene maltrattato normalmente a 25 Block. È una così, una prerogativa nostra. Bello, che fai a mezzanotte in quarto ancora sveglio? Pare sta aspettando che mi chiamai, ma le sembra questa non la richiamare. Non dire bestemmie, eh? No, non bestemmie. Ok, aspetta, provo di nuovo ad alzarti un po', perché sennò ritorni poco. Devo abbassare la cassa e dovete sentirlo in cuffia, dai. Ecco, dai, c'hai Ale in cuffia dall'altra parte. Allora, ciao, ciao bello. Finalmente parliamo di persona. Sentici, ma è un po' di tempo che non passare da ste parti. Sarà più di un anno e questo mi preoccupa molto. No, per carità, passeremo. Almeno nella veste parcossiani al Leon, secondo me, cioè lasciamo perdere. Sarà... sì, brutta gente. Sì. Per quelli che sono rimasti. Quelli che sono rimasti comunque da veramente tantissimo nella veste di DM, insomma un po' di meno, ci vediamo da tempi più recenti. Dai, cosa c'è in progetto invece? Cosa ci racconti? Quali le prossime uscite? L'estate si sta avvicinando e abbiamo la Furia qua, magari gli rimediamo pure, no? Una serata. Io la parte mia l'ho fatta già. Già l'ho invitati subito sia a Bisogna al festival al Pecora Nera, che è quello che abbiamo organizzato anche e quindi in diretta, attenzione. Sì, in verità la sapevamo, ma non l'abbiamo citata, non ci ricordavamo adesso. Il giorno preciso, quindi sì, perché Bisogna, ecco. Non c'è ancora mai nessuno. Però insomma facciamo la serata il 28 giugno, no, il 28 giugno. Che vabbè, poi cioè 28 giugno, però Ciccio, 28 giugno, cioè è interessi privati in atti d'ufficio, lo sai, no? Lo so, sì, lo so. Vabbè. Lo so, sono tutti comprati nostri, no? Però mi faccio questo regalo, insomma ci stanno loro che a parte non dovevo ragionarci insieme, che torniamo a fine mese a Strike, e il 28 io non suono, però sto lì sotto il palco, anzi, ma credo sul palco vicino a loro, perché dovrò sicuramente stare sul palco. E niente, loro a Tratti Frontali, Kaleidoscopic d'Arezzo e altri gruppi per il festival. E poi insomma, non so se ci saranno anche i Serpenseno il 29 a Strike, se no comunque se invito a venire, perché sarà sicuramente un seratone. Faccio la locandina molto presto, giuro. Grande. Grande. Vabbè, comunque l'hai fatto un disco della Madonna? Sì, no, dicevamo, facevamo dei commenti, gli ho mandato a Ciccio una cosa, questi spaccano, e lui come mi ha risposto? Che già li conoscevo. Già li conosco, spaccano. Era una roba così, sì. Più o meno andare così. Va bene, dai, per ora è stata così, un'improvvisata. Sì, ma vabbè, sempre bene. Speriamo mettiamo abbastanza fermi, a parte queste ultime due date. Dobbiamo rimescolare un po' le carte come palcoscenico, però... Beh, però i 10 anni sono andati molto bene, poi non ne abbiamo parlato niente a quei 25 o'clock, però insomma, oggi devo dire, ho risentito, aspetta che te lo dico, Devi aspettare. Ho risentito, scusami, la prima versione di Disamore. Sì. Quella di più di 10 anni fa ormai, di un 12 anni fa, e veramente è da paura. Ti ringrazio. A distanza di 12 anni, io vabbè, dai, ci diamo un appuntamento comunque, ripassate, perché sì, ma sicuramente quando io penso che dopo l'estate riusciamo anche a portare qualcosa di nuovo. Va benissimo. E da parte del team, insomma. Va bene. Per lo meno registrato così, insomma. E per, solo per te. Grazie. Tra l'altro, sì, io ho un aneddoto sui palcoscenici, sì, del Neon, sì, e Radio Onda Rossa. Nel senso che una volta, tornando con Maurizio dalle prove degli ultimi, mettiamo Radio Onda Rossa e c'erano appunto palcoscenici. C'erano i comunisti della capitale, mi pare. E però c'era, non so se c'era un problema tecnico, no? Sì. E praticamente andava a rota, e praticamente è andata tipo 10-15 volte. No, in automatico. Vabbè, quello però è l'automatico della rota. Niente, però ci piaceva, quindi se la siamo sentita, tipo. Pago pretendo. Noi paghiamo per mandare in. No, quella è la compagnia automatica Zara, che essendo di Radio Onda Rossa, evidentemente. Ha il conto corrente postale segreto che pochi gruppi sanno e i gruppi vanno via. Bonificare per mandare al loop. Comunque mi dispiace, Ciccio, ma non era per i palcoscenici al Neon, ma per comunisti della capitale che lo faceva. Per motivi esclusivamente ideologici la compagnia. Okay. Ce la siamo sentita molto volentieri, tutta in loop. Va bene. Ok, allora dai, ci diamo appuntamento. Vogliamo ripeterle velocemente le prossime date, dai. Il 29 a Strike. Sì, abbiamo. Il 17 andiamo a Fabriano, a Corso Matteo. Ok. E il 29 a Strike, quindi per il momento stiamo fermi. Questo. Va bene. Ok. Va bene. Bella. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene, grandi raga. Ciao, buonanotte, bello. Ciao. Somewhere in the world it's 5 p.m. and quitting time is it's time to drink. Somewhere in the world it's 8 o'clock. Let's get live, man, and go to gig. Somewhere in the world it's midnight and the gorillas just shout too big. Somebody needs to bottle this adrenaline, throw that the middle fist, stomping through your suburbs like coke, meth and Ritalin. Street lights and little sins, we fight for little yen despite the bitter. E invece questa è l'ultima versione di Disamore, palcoscenico al Neon, poi saluti finali con la Furia e facciamo subentrare per un po' di tempo il Banana, che ci presenterà una sua scalettina finale di conclusione. Momento es el otro. El salto que solo muerta la mano se avicina la cortina. Ed ora una canzone d'amore. Era tutto preparato a dovere, eh? Avevo fatto la cosa carina, adesso una canzone d'amore, invece è andato Boots Riley e Tom Morello. Va bene, dai, come avevamo detto prima, hai adesso una canzone d'amore. Tieni pure la tua musica di plastica, pensata d'arte per un pubblico che vuole evadere. Qui sono tanti cupi, adesso non c'ho voglia di sedativi musicali per certe bene. Questa non è una canzone d'amore, nemmeno d'odio, se è vero che oggi l'odio vende bene. Questa è attitudine forgiata da passione, sangue, sudore, lacrime, sopravvile. Eccoci qua, siamo alla fine, siamo alla conclusione, i microfoni sono aperti, a voi saluti, a voi 10 minuti di Radio Onda Rossa, dai. Io direi che è il momento di Marco, il nostro giovane chitarrista, che è stato taciturno fino a molto taciturno, ma molto meno serio di me di H, e voleva fare una dedica speciale alla strada, alla ferrovia, alle Veronica 66 e basta, perché poi no, a parte gli scherzi, ringraziamo Radio Onda Rossa e facciamo gli auguri di buon compleanno che arriva a breve, dicevate, no? Sì, dai, poi chissà che non avremo occasione di incontrarci, non solo appunto per un'intervista, ma magari pure per provare a farvi suonare, insomma, chissà. che in futuro spaccano, passi in automatico. Ho sentito che in radio ci stanno molti passaggi, al di là poi della mia enfasi e del mio... Insomma, vabbè, ma che cos'è l'amore? Dai, la voglio fare questa domanda. Che cos'è, cioè, per noi... Cioè, uno fa una cosa che poi, insomma, è un altro classico poi del punk, no? Ricordiamo Johnny Rotten, This is not a love song, no? Questa non è una canzone d'amore. Appunto, in realtà l'amore, per come ce lo descrivono loro, è una cosa molto distante poi da come viene vissuto da chi vive la strada, ecco. Che c'è un altro tipo d'amore. Difficilissimo, dai, dovete tirare fuori voi stessi. Che cos'è l'amore per voi? Praticamente. Vai, H, questa è tua. No. Non messo in serio imbarazzo. Passo. No, perché invece, dai, invece nel pezzo l'avete spiegato in qualche maniera, dai, come è venuta fuori sta roba. Fondamentalmente parliamo del pezzo e magari ci viene più facile, certo. Cioè quello che è il vostro modo di espressione. Quello che cantiamo in quel pezzo è fondamentalmente la passione, che poi è, cioè, non è un, come dicevi te, l'amore non è un sentimento come ce lo spiegano in televisione o nelle sitcom, ma è un sentimento che è anche figlio della rabbia e dell'odio e di tante altre cose, e c'ha tante sfumature. Sangue, sudore e lacrime. Sangue, sudore e lacrime, e questo è il punk hardcore, dicevano di Tear Me Down. E nella fattispecie noi parliamo dell'amore per la musica che ci piace, che è quella che viene dal basso, e per le persone che stanno in basso, come dice Marco La Strada e Leperoni 66. Per questo momento, per ora e per tutti i momenti, che insomma sono momenti di ribellione, poi tutto sommato. Esatto. Meglio di questo non sappiamo risponderti, vero? Va bene. Allora, dai, alla prossima vostra venuta in radio. E dai. Grazie mille, davvero. Ci avete da salutare le mamme, queste cose così. Ma però Caciotta e Gillo, dai, magari sì, sicuramente. Dai. Che sono poi le parti che mancano della Furia. Tutti gli amici di sempre, di tutta la vita. E tutti quelli che mi conosco. Un saluto a tutti e a tutte. Va bene. Allora, no, invece dai, ve la faccio fare un'altra cosa, poi magari la estrapoliamo. Radio Onda Rossa, questa qui la faccio fare di solito. Per far sostenere Radio Onda Rossa, la faccio fare solo a chi se lo merita. Ok, allora, per sottoscrivere alla Onda Rossa il conto corrente postale è il 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56, 00185, Roma. Potete andare sul sito, sto andando bene? Potete andare sul sito, che è www.ondarossa.info. l'email è ondarossa@ondarossa.info. Il telefono è 06 49 17 50. Perfetto, lo sfax non c'è. Non c'è scritto grosso come una casa, non annunciarlo, e non riceviamo SMS, più. Sì. Va bene, dai, è il momento del banana, ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. Cielo, squarcia il velo di maglia nella noia dell'asfalto, un grido prima che scompaia, messe Houseman, schiuma rabbia la plebaglia, non la chiudi in campi elisi, la comune non si abbaglia, da battaglia, sguinzaglia per gendarmi che non perdono il collare, le tue opere rovine prima ancora di crollare, la serpe con la furia proletaria, manda all'aria i piani della curia, freno d'emergenza della storia, morti, giorni che scappano i sogni, lagnano i corpi, i nostri volti, dentro tutte morti, intanto canto con la furia di chi ti vuol vedere tutti morti, gonfia più.